Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Buona domenica, signori miei, e benvenuti a Voice Anatomy. Sono le 14:33 primi, ecco, 34 adesso, così è. Cifra tonda, è la 39esima puntata di questa seconda stagione di Voice Anatomy e sapete, vi ho abituato che ogni inizio di puntata ricordiamo o salutiamo chi è nato lo stesso giorno e ci ha regalato qualcosa con la sua voce e non solo, ovviamente. Bene, dovete sapere che l'11 giugno del 1933 a Stanford è nato Jerome Silberman, più noto a tutti come Gene Wilder, il grandissimo attore, non soltanto comico, sarebbe riduttivo. Pensate che lui ha iniziato a recitare in teatri di periferia, in spettacoli di secondo livello, nei quali però cominciava a farsi le ossa e imparare alcuni trucchi del mestiere. Nel 63 Gene Wilder venne scritturato nel ruolo principale dello spettacolo teatrale Madre Coraggio e i suoi figli a fianco di Anne Bancroft, che poi diventò anche la moglie di Mel Brooks, che poi è stato il padre artistico di Gene Wilder. La consacrazione vera di Gene Wilder viene nel 71 con Willy Wonka, il primo Willy Wonka, la fabbrica di cioccolato di Mel Stewart, tratto dal romanzo La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Poi ovviamente nel 74 Frankenstein Junior, che regala a Wilder e a Brooks una nomination all'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Bene, l'abbiamo salutato poco tempo fa, 83 anni, in seguito proprio a complicazioni di una sua malattia. Oggi vogliamo ricordarlo in doppia veste. Voglio farvi sentire una scena che è famosissima di Frankenstein Junior, quando lui entra nella tana del mostro e lì poi cerca di convincerlo che lui è buono. Bene, l'abbiamo realizzata e saluto con questa scusa il nostro tecnico del suono Valerio, oggi che si alterna al puntuale Alessandro, Rachele come sempre capo di redattrice di se stessa, i miei straordinari autori Mauro Meconi e Alessia Navarro e gli ospiti che già sono intorno a questo tavolo. Sono molto orgoglioso, cioè, si va dal sacro al profano. Il profano sono io, il sacro alla mia destra, un altro profano alla mia sinistra, ma sempre in maniera molto scherzosa ovviamente, ma li conoscerete strada facendo, come diciamo Gol. Andiamo avanti e voglio farvi ascoltare questa scena divisa in due. Prima è Gene Wilder con la sua voce originale che inizia questa scena e poi direttamente dopo che il mostro si sveglia diventa doppiato dal grande Orestio Leonello, e qui vi renderete conto che cosa significa il doppiaggio, essere la stessa persona con la stessa anima. E allora ascoltiamoci tutto d'un fiato questa bellissima scena tratta da Frankenstein Junior. I'm going in there. Bring me that candle. No, yes. Love is the only thing that can save this poor creature. And I am going to convince him that he is loved, even at the cost of my own life. No matter what you hear in there, no matter how cruelly I beg you, no matter how terribly I may scream, do not open this door or you will undo everything I've worked for. Do you understand? Do not open this door. Yes, doctor. Nice working with you. Fatemi uscire, tiratemi subito fuori di qui. Ma che diavolo vi succede? Stavo scherzando! Possibile che non capite quando uno scherza? Miseria schifosa! Tiratemi fuori di qui! Aprite se non volete che vi schiacci la testa! Mamma! Nein! Eia, bellissimo! Sei veramente un gran bel ragazzo, lo sai? La gente ride di te, la gente ti odia. Ma perché ti odia? Solo perché è invidiosa! Guardate che amore di viso e che sorriso simpatico! Vuoi che alluda alla tua forza fisica adesso? Tu vuoi che io decanti la potenza dei tuoi muscoli? Tu hai diritto al tuo posto nell'Olimpo degli dèi. Tu sei un dio. E ascoltami bene. Tu non sei cattivo. Tu sei buono. Sei tu l'amore di mamma. E io voglio che il mondo sappia, una volta per tutte e senza nessun dubbio, che noi lo amiamo. Io ti voglio insegnare, ti farò vedere come si cammina, si parla, ci si muove, si ragiona. Uniti, tu ed io, daremo il più grandioso, essenziale contributo alla scienza, dalla creazione del fuoco! Dottor Frankenstein, lei sta bene? Il mio nome è Frankenstein! Eccolo qua, era leggermente velocizzato rispetto all'originale, ma questo succede quando si cambia supporto sonoro. Anche noi quando doppiamo un film va a 24 fotogrammi, che è quello del cinema, e poi in DVD magari va a 25 fotogrammi. Tu ancora non puoi parlare, sei il primo ospite, ti devo presentare io. No, non lo puoi fare. Però mi sembrava molto bello regalare questo momento al grande Gene Wilder e al grandissimo e indimenticato Oreste Lionello, che è identico anche al grande Woody Allen. Ma vicino a me, alla mia sinistra, c'è un bravissimo attore doppiatore. Poi oggi vedo che lega ai nostri ospiti Torino. Tu sei nato a Torino il 23 novembre del 64, si può dire. Sì, certo, certo. Ecco, sei un attore, un doppiatore italiano, figlio dell'attore Bob Marchese, che non è un mafioso italo-americano, no, vero? No. Non è vero, puoi parlare. Paolo Marchese, eccomi. Avvicinati bene. E avvicino il microfono. Anche se c'è una voce che può arrivare un po' dovunque, tranquillamente. E anche mamma con la W, Vilma D'Eusebio. Sì. Ma papà è italiano, sì? Assolutamente sì. Bob perché? Nome d'arte. In famiglia lo chiamavano Bob. Si può dire una cosa, che in realtà mio padre si chiama Giuseppe. È come me. E perché Bob? E che ne so, bisogna chiederlo a lui. Va bene. Ma tu hai doppiato un po' tutti, veramente. Inutile nominarli, poi li scopriremo anche con te strada facendo. Insomma, Paolo, insomma, tuo padre sappiamo che è prevalentemente un attore di teatro. Sì. Ha lavorato anche nel cinema con registi straordinari come Sorrentino. Sì. Il Dio, sì, sì. Ha fondato il gruppo Della Rocca, un gruppo, sì, storico. La più grande cooperativa teatrale. Beh, che ci sia mai stata in Italia. Insomma, lo senti tu questo attaccamento al teatro? Anche tu cominci col teatro? Anch'io ho cominciato col teatro nel 79. Che è passato qualche annetto. Ma lascia sta, non è vero. No, beh, teatro che poi ho messo un po' da parte, ma perché il destino ha voluto così, insomma, si ha preso piede l'aspetto, sì, il doppiaggio, quindi ho lasciato un po' da parte il teatro, ma il teatro sta tornando alla grandissima nella mia vita. Non deve mai uscire dalla vita di nessuno, e lo dico anche alla mia destra, anche se parleremo lui lungamente nella seconda parte della trasmissione, ma un altro torinese, Doc, che lui un po' più giovane di te, nato il 29 agosto, io il 30, siamo due verginelli, niente male. Lui è qualsiasi cosa, non è solo un cantante, non sei solo un narratore di suoni, non sei soltanto un antropologo vocale, non sei soltanto un semplice cantante, uno studioso, lui è Albert Era. Benvenuto Albert. Grazie. Siamo molto contenti. Grazie. Di essere riusciti ad averti qui, perché anche vieni da fuori, insomma, lavori, sì, fuori, eccetera. E dopo con lui faremo un percorso filologico attraverso i suoni e attraverso la tua voce, che è veramente magica da questo punto di vista. Dovremmo farci doppiare. Ha portato tutti gli armamentari, il suo mixer, per cui tu rimarrai. Per cui io rimango, sì, adesso, certo, sei tu il protagonista della situazione. E poi c'è un nostro mio grande amico che è un poeta non conosciuto, ma ha scritto delle cose bellissime, una sorta di Trilussa moderno. Io lo adoro. Dopo leggeremo qualcosa, o leggerò qualcosa, visto che sono in romano e tu sei torinese. Sì. Ho capito, però sei un attore. Dovresti... Io voglio sentirmi intanto una cosa, altrimenti Mauro Meconi, che è qui al mio fianco, che sta andando in diretta a Facebook, sta andando, vedi come la radio in televisione fa così, che lui scarica delle cose e poi dice: non li utilizzi mai, ne vuoi altri? No, tu sei tante cose. Poi parleremo di Papa Pig, tranquillo, non te la lascio. No, lo so, capito, è facile. È il mio tormentone. Ma il mio quello tormentone sarà così. Però voglio aprire con te con il bravissimo Forest Whitaker, che tu hai doppiato in The Butler, il maggiordomo alla Casa Bianca. La Casa Bianca. E noi ascoltiamoci uno stralcio di Forest Whitaker, ma con la voce di Paolo Marchese. Lei si interessa di politica? No, signore. Bene. Perché non tolleriamo opinioni politiche qui alla Casa Bianca? Come mi ha trovato? Non sono stato io. Lei ha servito il signor Warner all'Hotel Excelsior. Sovrintende tutte le operazioni della Casa Bianca e ha fatto colpo su di lui. Non lo ricordo. Io e il signor Warner segnaliamo potenziali domestici in città. Il posto di maggiordomo è di rado libero. Molti restano anche più di 30 anni. Lo so, la telefonata mi ha sorpreso. (Ride) È stata una sorpresa anche per me. In quanto maître della Casa Bianca, di solito assumo io i maggiordomi. Mi perdoni se dico questo, signor Fellows. A me non piacerebbe essere assunto per circostanze che potrebbero metterla a disagio, mi creda. Davvero? A lei servono uomini scelti personalmente. Persone di suo gradimento che soddisfino la sua visione del personale della Casa Bianca. Esatto, è quello che penso anch'io, Paolo. Ma è molto bello perché Mite, questo maggiordomo che ha attraversato mille presidenti, mi ricordo che facevo un presidente anch'io, pensavo che ne sono passati là dentro, che era Lee Schreiber. E finisce con Obama. Sì, è vero, perché poi è una storia vera. Sì. Bello quando è così. Quando poi è una storia vera è che è ancora più un imbarazzo, ha una sensibilità diversa quando si doppia una storia del genere. Sì, poi io lo trovo bravissimo, lui è fantastico, un attore fantastico. Tu l'hai doppiato anche in altri film, che è uno di quegli attori che si gioca un po' a ping pong. Sì, anche in una serie che era... aiuto. Peppa Pig. No, non era Peppa Pig. No, Criminal Minds, Suspect Behavior. Suspect Behavior, il titolo è difficilissimo. Sì, Albert. Tra l'altro, capito, per cui... Poi Albert era con l'H però. Sempre si pronuncia comunque no Hira. No, se no era Fu. Era Fu. No, vabbè. No, Albert Di Cazzari siamo noi. Tu e io ti ho presentato come una persona. Se devo andare anche in pubblicità, vabbè. Io speravo dall'altra parte che ci desse uno spessore. E invece cominciamo così anche con lui. E vai. A tra poco, rimanete con noi. Perché, lo sapete, Voice Anatomy è appena cominciata. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, domenica 11 giugno, diretta assoluta, 14:47 primi e 39 secondi in questo momento. Paolo Marchese alla mia sinistra e alla mia destra Albert Era con l'H. Ho già detto quante cose di lui, ma dopo lo scopriamo, è veramente affascinante. Non parlo lui come persona sicuramente, ma la sua professione, quello che ha costruito con la voce in tutto il mondo, è straordinario. Tutti e due di Torino, Torinini e il calcio, seguite il calcio? Perché sì, tendono l'America senza calcio. Io sì. Io o torinista? Sono nato a Torino. Sei torinista per cui. Chi è nato a Torino è del Torino. Grande Torino, siamo tutti del grande Torino. Quando se ne andò abbiamo perso noi la nostra verginità, come l'ha persa l'America con l'assassino dei Kennedy. Guarda, secondo me è stato lo stesso tipo di lutto. Tanti messaggi già, nuovamente non ci avevi abituate così, cominciate dopo un po' a percorrere il nostro sito eccetera. Vi ricordo il nostro sito Facebook è molto frequentato, dove già adesso l'amico Mauro Meconi, essendo anche regista a parte attore e sceneggiatore, quante cose sa fare, ne facesse una bene. E sta andando in diretta, che questa non è radio, si chiama televisione quando si va in diretta così, però noi andiamo anche con l'evocazione e la voce evocativa. Tanti messaggi bellissimi, devo dire, a parte i complimenti ai nostri ospiti come sempre, ma questo mi fa ridere, mi piace molto. Non li leggo tutti perché sono tantissimi già. Questa è la migliore trasmissione di tutti i tempi. Va bene, rifletti, ricordi, ridi, tanto a volte ti commuovi e impari qualcosa. È come essere lì e nessuno può condurla meglio di Pino Insegno. Questo ti ringrazio. Hai tanti snob che rompono con i film in lingua, magari perché hanno, come disse una tizia, una laurea in English, e consiglio di mettersi il cuore in pace. La laurea in inglese l'ho anch'io, ma il doppiaggio italiano non si discute. Carla dice, Bibitario, Ignazio forever. Questa è una gag della premiata ditta, Ignazio Bibitaro. Vabbè, questo... No, ma è intellettualmente onesta la nostra amica, perché io dico sempre, se sei la lingua, no Albert, lo vedi in originale, se tu sai lo spagnolo García Lorca te lo leggi in originale, va benissimo, altrimenti dipende dall'adattamento, no Paolo? Infatti. Cioè, se c'è un buon adattamento veicola meglio una, sicuramente una realtà. In tanti casi abbiamo migliorato degli attori stranieri e qualche caso purtroppo no questo... beh, soprattutto nelle serie quando si corre troppo, non è mai colpa nostra perché ormai la serie te la mandano il Trono di Spade lunedì e venerdì va in onda, per cui non c'è tempo neanche di tradurlo certe volte. Infatti. Poi altre persone, basta con questa baggianata che la voce del doppiatore è meglio quella dell'attore, ma quando mai, basta, fatela finita, dice questa persona. Ma che vuol dire? Questo lui è contrario, bisogna leggere anche le cose contrarie, ce ne stanno mille a favore, una contraria, io leggo tutto ed è giusto che sia così. Ma guarda, amico mio o amica mia, se vuoi puoi anche intervenire in diretta. Alessandro da Roma, il numero è 800 24 00 24. Se vuoi ne parliamo tranquillamente, perché la voce è l'elemento fondamentale di questa trasmissione ed è anche l'elemento di comunicazione più importante che esiste al mondo. E voi sapete che noi lo percorriamo in tutti i suoi meandri, in tutte le sue declinazioni, con dei vocologi, con degli attori, doppiatori, cantanti, studiosi della voce come Albert è, e ne parleremo con lui lungamente, per cui tranquillamente ne possiamo parlare. In tanti casi sì, è meglio di quella dell'attore, però è vero, l'attore, noi siamo soltanto il suo doppio, per sì. cui è falso, è un falso d'autore. Assolutamente sì. No, per cui ci sta. Ciao Pino, nella dichiarazione dei redditi bisogna dare il 2% ad un partito. Esiste un partito della cultura o del tuo gruppo teatrale? Mi puoi per favore inviare il codice da indicare mercoledì la scadenza. Grazie Francesca. Magari, è vero, una bella idea. Sì. No, no, mi mando l'Iban poi privato di Paolo in qualche modo. Anche, va bene. Paolino, insomma, tu anche allora. Le serie, a proposito di serie, sì. Tu Albert, li vedi in originali film o quelli che riesci a seguire, ami? Mai... Tendenzialmente no, in originale, in italiano, quando okay. vedi film. Primariamente bisogna avere il tempo per vedere i film. Vedere i film, cosa che non fai, ecco, mi sembra capire che vedi pochi sono film. Sono sempre in giro, quindi mi diventa difficile seguire. Sì. Poi beh, bisogna avere il tempo anche per assorbire il film, e capirlo, entrare dentro. Cioè, non vedo un film per passare il tempo. Tu lo analizzi. Sì. Qual è il tuo cinema preferito, Albert? Ma... io mi ricordo quando mio padre mi portava al cinema. Oh, questo sì, è una cosa che mi tocca, perché il primo film che mi portò era I cannoni di Navarone, che era un film di lunga durata. E mi ricordo tra il primo e il secondo tempo gli feci una domanda a mio padre: ma il film è finito? E lui mi disse: no, c'è ancora il secondo tempo. E avevo 8 anni. Non è stato uno shock per cui no, perché poi Ben Hur abbiamo visto insieme, cioè tutti questi film che poi sono diventati un cult. Mi sembra di capire che è un po' che non vai al cinema. Sì, ma penso, cioè, questo, con tutto rispetto delle persone che guardano i film, io giustamente ascolto musica. Ascolti, sì, ascolto musica. E allora ne parleremo poi okay, con te in maniera okay. più approfondita. Però sono qui ad ascoltarvi. Questo mi fa piacere. Caro Marchese, Pino, tu sei, hai fatto tanto, abbiamo visto poi prima un Forest Whitaker straordinario, però le serie, anche televisive, tu sei una delle voci fondamentali, soprattutto a me quella poi piace di più, Downton Abbey. Downton Abbey. Dove io ho fatto tanto... Un maggiordomo caro. Sì, bellissimo. Devo dire, tu hai una voce senza età, stai sopra un ragazzo più giovane, come una persona grande, e riesci a coprirla bene. Diciamo che in linea di massima... Respiri con lui. Copro dai 40 agli 80. Hai capito? Sì, c'è una voce particolare. È vero. No, ma la sai utilizzare soprattutto, e quella è la cosa importante. Adesso non ho un esempio di Downton Abbey, ma io l'ho doppiato soltanto poi per fare uno sgarbo a mia moglie, che mi ha detto il finale di Homeland senza saperlo, e allora noi che vedevamo sempre questa bellissima serie di Downton Abbey, ho detto quando mi ha chiamato il direttore di doppiaggio Galassi, ho detto vengo, che era l'ultima stagione, e io facevo per il gusto alla fine fai di finale, ho fatto non uno spoiler, ho fatto una spider, gli ho fatto non uno spoiler, l'ho distrutta, ho detto come andava a finire, e non mi sono vendicato in qualche modo. Vabbè, quando ci vuole c'è anche un Walking Dead, tu. Sì. Sei Lenny Chemese, come si pronuncia lui? Come... Sai che non lo so come si pronuncia. Andiamo esattamente bene, è complicatissimo. Ah, tra l'altro tieni presente una cosa, io a parte qualche attore, insomma, i più famosi, insomma, ecco, Forest Whitaker, sì, John Travolta, John Goodman, sì, questi, sì. Eccetera. Difficilmente ricordo gli attori che... Delle serie. No, ma gli attori che doppio, infatti quando dice ma tu chi doppi? Io, tutti e nessuno. così tagliamo la testa al topo. Perché è complicatissimo. Forse il mio approccio con questo lavoro, che è un po' particolare da questo punto di vista. Facciamo tempo a sentire la clip di Walking Dead? Almeno ti ricordi chi è il personaggio? Morgan. Sì. Ah, ok, meno male, bravo. Dai, ascoltiamolo. Ci hai provato? Che cosa ho provato, Morgan? Che cosa ho provato? Hai provato a farmelo fare perché era la cosa giusta. L'avrei dovuta uccidere. Lei, la mia Jenny. Sapevo di doverlo fare, ma l'ho lasciata stare. L'ho lasciata stare senza pensare alle conseguenze. Noi eravamo sempre in cerca di cibo. L'importante era sempre il cibo. E io stavo controllando una cantina. E non volevo che Dwayne venisse con me, e poi quando sono risalito Lei era in piedi proprio davanti a mio figlio e lui le stava per sparare e non riusciva a farlo. Così l'ho chiamato e si è voltato e lei in un attimo mi è saltata addosso e l'ha morso. E io vedo rosso, tutto quanto è rosso, non vedo altro che il rosso e lo faccio. Finalmente. Ma ormai era troppo tardi. Avrei dovuto farlo prima. Sono stato egoista. Sono stato debole. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei. 15 in punto e una manciata di secondi. Alla mia sinistra Paolo Marchese, alla mia destra Albert Era, con il quale faremo un percorso filologico, musicale, vocale straordinario. Nel frattempo lo facciamo fisico con Marchese, che non è soltanto un titolo di onorificenza. Marchese, insomma, è un cognome. Esatto, è un cognome, non è come chiamarla Conte. Senti, parlavamo di queste serie televisive. Tu sei anche, sei dappertutto, è vero, tutti e nessuno. Nel senso, è come quello, dici io tu, non mi sopporto, cioè, più. No, i cartoni animati, per esempio, meraviglioso, uno degli ultimi che hai fatto, Inside Out, dove eri uno dei cinque. Sì, Rabbia. La rabbia, rabbia. Era bellissimo. Ci sono ancora le mie corde vocali sul microfono. Dove, ringraziando il cielo, non c'erano i talent, come si utilizza dire, no? Persone famose che doppiano, sì, il cartone animato, sì, sì. Io lo urlo da questi microfoni, anzi, anche contro il mio interesse, ma io faccio il doppiatore a parte essere un attore. Ma anche perché poi, se uno va a vedere i talent americani in originale, sono attori, insomma, c'è sono attori. Una piccola differenza. Sì, esatto, non sono presentatori o cantanti. Infatti, se canta una canzone, calciatori. Sì, esatto, se è un cantante deve cantare, benissimo, ben venga, insomma. Per carità. Però ecco, quel film anche è stato quello che ha voluto, che è un film, infatti, interessante, intelligente, doppiato anche molto bene. E a parte questo, ma tutti l'hai fatti, ovviamente, B-Movie, Ratatouille, i Simpson, sì, ma Peppa Pig. Peppa Pig. Quella è il quella è la nemesi di un doppiatore, quando ti fermano per la strada e ti chiedono, come prima Mauro Meconi per le sue gemelline ha detto, ti prego, fai Peppa Pig. E no, è quella, sì, che c'è, non c'è niente da fare, tu puoi fare quello che vuoi. Ma io stesso a volte mi è capitato al mare, magari c'avevi vicino l'ombrellone la coppia con i bambini eccetera, e vedevi che aveva l'asciugamano di Peppa Pig e tutto di Peppa Pig. E io dico, senti, ti svelo un segreto, io sono la voce di Peppa Pig. Sentiamo, però deve rimanere soltanto tra di noi. Sentiamolo. Appendiamo questa bella foto di Peppa e Giorgio al muro. Lascia fare a me. Sono io l'esperto del fai da te in questa casa. Sei sicuro di saperlo fare? Ma certo. Basterà mettere un chiodo nel muro e appendere la foto al chiodo. Molto bene. Io vado a trovare la nonna e il nonno. Ci vediamo più tardi. E per favore non fare pasticci. Pasticci? Ciao. Ciao, bambina. Papino, possiamo aiutarti ad appendere la fotografia? Potete guardarmi, così imparate come si fa. Prima di tutto ho bisogno di un metro a nastro. E di una matita. Fate largo, bambini, e guardate un artigiano al lavoro. Il papà sta per mettere un chiodo nel muro. Attento a non rompere il muro, papà. Non essere sciocca, Peppa. È bello. Ma un attore, un cantante, c'ha un tormentone nella sua vita, ci deve essere, dai, ci sta, ci sta. Sì. Io ho i grugniti. Ma non sono i tuoi, quelli sono in origine. Tra l'altro non sono i miei, e ci ha creato dei problemi, delle grosse difficoltà. Perché c'è un paletto, devi finire di parlare prima che quello fa. E oltretutto magari ce l'hai in mezzo alla battuta o in mezzo alla risata. La risata finale di ogni episodio era una cosa da è vero che ridete sempre buttandovi nelle mani. Non è una bella cosa di dei bambini di buttarsi nel fango, perché io mio figlio ha 2 anni e mezzo. Quanti lo fanno? Lo so, purtroppo. Non è educativo. È educativa la... come i Teletubbies. Però sai, Se uno pensa ai giochi di oggi, forse saltare nelle pozzanghere non è male. No, esatto. Non è male. Rispetto a tutto quanto. Senti, poi parleremo con te anche di questa cosa del teatro, la tua associazione. Assolutamente sì. Ne parliamo dopo che ti ho fatto leggere, però come tutti i nostri amici attori doppiatori leggono qualcosa che non ha nulla a che vedere con la recitazione, ma per far capire che la voce è un veicolo importantissimo di comunicazione, dando delle intenzioni che vuoi tu. E come si affetta il prosciutto, mi sembra. Sì. Senti, sta partendo un attimo che Mauro Meconi sta partendo con la diretta, perché questa deve rimanere nella storia, nel nostro sito di Facebook, sempre molto frequentato. Nel frattempo arrivano Inside Out, film meraviglioso, bravissimi i doppiatori. Io ormai i film li seguo solo per indovinare il nome dei doppiatori, anche se il film è brutto, alla fine ti diverti, dicevate. Vabbè. Sceglie la strada che vuole. Siamo pronti a questa diretta, Paolo Marchese. Fammi un esercizio di stile di voci. Fammi da Papa Pig a Forrest Whitaker a... Mamma mia. Cioè divertiti. Metti anche un grugnitino per scambiare. ogni tanto per cambiare la situazione. Vuoi una musichetta? Ma anche no. No, Meconi. C'è Albert che potrebbe trovare qualcosa, ma poi si sputtana per l'eternità e sarebbe finito. No, una musica mettiamo. È il caso... Come tagliare il prosciutto crudo. Intero. Posiziona il prosciutto crudo intero nell'apposito tagliere. Come da foto. Bloccando l'osso con l'apposita morsa. Grazie. Prego. Poi taglia con un coltello ben affilato la cotenna e la sugna nella parte bombata del prosciutto. Quella superiore. Le operazioni di taglio possono essere pericolose, ricorda quindi di tagliare sempre verso l'esterno e verso il basso. In questo modo, se il coltello ti sfugge, finirà sul tagliere, non sulle mani. In ogni caso, sarebbe meglio proteggersi utilizzando dei guanti protettivi realizzati in rete metallica, di quelli che si usano anche per il pesce. Per ripulire bene la parte edibile, togli anche lo stucco presente sull'estremità dell'osso con un coltello più piccolo. Nel togliere la sugna e la cotenna, stai attento a non affondare troppo la lama per non asportare in eccesso. Sugna, cotenna e grasso sono preziose per conservare la carne del prosciutto crudo intero che non mangiate subito. Quindi meglio procedere con sottili tagli regolari finché non arrivate alla carne. Quando la superficie destinata al taglio delle fette risulta ben pulita, incidi la falda del grasso tutto attorno, avendo però cura di lasciarla presente all'inizio del gambetto. Viscidone. In questa fase si lavora con il piccolo coltello di lama e di punta, andando a tagliare il grasso più vicino possibile alla polpa. È opportuno tagliare solo la parte di grasso necessaria per procedere poi con il taglio delle fette. Questa operazione si ripeterà ogni qualvolta sia necessario tagliare nuove fette dal prosciutto crudo intero. Via via che ci si avvicina all'osso, giunti in prossimità, questo deve venire scarnificato con un piccolo coltello. Certo, bellissimo, bravo. Grazie. Ma sai, giocando un po', sarebbe stato facile prendere Amleto, Macbeth, Enrico IV, eccetera. Fallo con questo, falle diventare credibile, no Albert? Rendere credibile il taglio di un prosciutto con questo esercizio di stile vocale. Profondità. Questo del taglio. Sì. Profondità mi sembra proprio i titoli del giornale. Profondità il titolo. Invece, dopo questo, facciamo uno stacco leggero. Il tuo teatro. Mi dicevi che c'è un'associazione molto importante che hai fondato. Allora, sì, è un'associazione neonata, proprio nata da pochissimo, che si chiama Teatrando, a Grottaglie, in provincia di Taranto, quindi molto lontano in realtà dalla mia città natale, che è Torino. Però Grottaglie è un paese di cui mi sono innamorato e c'è un bel fermento culturale. c'è molta voglia di cultura, soprattutto. Manca il teatro vero, quello professionale, professionista, che non si vuole. Gira più, per cui... Perché, esatto, si gira, si, le compagnie girano soldi, pochissimo. Eccetera. C'è molto teatro locale. In lingua, nel senso in dialetto? Oppure... Sì, molto, molto in dialetto, pochissimo in italiano, però sono le compagnie dell'oratorio, le filodrammatiche, che vanno benissimo. Sì, no, assolutamente, la Goliardia Teatro funziona, manca, comunque, però manca insomma, un po' anche alternarla. Esatto, l'aspetto serio. Quindi nasce questa associazione con l'intento di fare teatro seriamente. Sono 2 anni che facciamo un laboratorio teatrale insieme a mia moglie Raffaella Caso. Devo dire che sta anche andando piuttosto bene. Abbiamo intenzione adesso di... Ha aperto anche un'accademia lì? Qualcosa del genere? È quello che abbiamo intenzione di fare. Certo, almeno c'è anche una formazione oltre importante. Oltre al laboratorio, diciamo così, per gioco, di fare una scuola un po' più seria. Abbiamo già preso anche contatti con diversi insegnanti di canto e di ballo per integrare il assolutamente tutto, deve essere completo, deve essere... voglio fare il doppiatore, se non sei un attore non lo puoi fare, ecco, anche voglio fare il cantante discorso... ma se non hai l'impostazione della voce non puoi fare niente. Esatto, e probabilmente quasi sicuramente insomma debutteremo con il primo spettacolo alla fine di settembre. Qual è lo spettacolo? Allora, lo spettacolo è un insieme di 2 atti unici di Chekhov, che sono Il canto del cigno e L'orso. L'orso lo conosco di più. Drammatico e Il canto del cigno è ironico, divertente. Sì, il divertente L'orso. Di Chekhov. Sì, chiaramente. Beh, però sai, a volte no, anche calcando un pochettino diventa sì, ancora più divertente. Proprio... Se pensi che per lui la cosa più divertente che ha scritto è stata l'ultimo, Il giardino dei ciliegi. Ecco, dice la cosa più divertente. Cioè, non ne parla come spettacolo ironico, sì, sì, eh. Sì. Cioè, è un'ironia graffiante nei confronti della società russa del periodo, per cui per lui era veramente... Il canto del cigno invece è un, come dire, una sorta di rassegnazione di un attore che ha dato la vita alle scene per 45 anni, avendone in cambio, sì, vero, applausi, fiori, eccetera, ma poca vita. Bello, dice, un monologo? Quasi, nel senso che sì, c'è un altro attore in scena che però in pratica fa quasi da spalla questo sfogo dell'attore di Vassili, che è spettacolare, è bellissimo, è molto, molto intenso. Come Il diario di un pazzo di Gogol, insomma, non Mogol, attenzione, no. Non confondete, in realtà sono questi monologhi russi bellissimi, devo dire, belli. E adesso invece per così anche dare un attimo di preparazione al tutto e anche un po' di pubblicità, per così dire. Certo, ma con te c'è il teatro? C'è un teatro. Immagino, spero di sì, insomma, sì, ma sì. La regione, il comune, insomma, dovrebbero aiutarvi in qualche modo, mi auguro. Ma noi ci auguriamo di sì. Dovrebbero investire in queste cose, no? Sono le cose dove bisognerebbe investire. Mi ha fatto molto piacere che al saggio dei ragazzi del laboratorio, che abbiamo fatto il 27 di maggio, è venuta tra l'altro non era neanche stata invitata, onestamente, l'assessore alla cultura di Grottaglie. Quindi ci ha fatto questa sorpresa, perché ha capito che c'era qualcosa per cui voleva qualche voto. È rimasta anche piacevolmente colpita, insomma, dal tipo di lavoro che c'è dietro, che facciamo con i ragazzi. Il Sud è quello che ha più fame di tutti, perché se vengono nelle accademie a Roma, a Torino, a Milano, eccetera, vengono dal Sud. Sono quelli che hanno l'occhio della tigre. Cioè, è preferibile prendere una persona che viene dal Sud, che ha voglia reale, perché si abbandona a casa, i genitori, gli amici, per intraprendere una carriera importante, e ci crede, ed è giusto invece investire, anche il contrario, esatto, cioè, rimanere lì, esatto. No, perché per forza avere tutti a Roma, tutti o tutti a Milano, esatto. Cioè, si può fare anche a Grottaglie. Mi piacerebbe che Grottaglie da questo punto di vista diventasse un punto di riferimento non solo per la provincia ma addirittura per l'intera regione. Questo sarebbe un sogno, per carità. I sogni si realizzano, dipende dall'intensità. Però stiamo investendo in questo senso. È giusto, vero Albert? Io penso di sì. Per mia esperienza è uscire fuori dai luoghi come può essere Roma e Milano, andare verso i luoghi. Io ad esempio ho scelto di insegnare a Crotone. faccio un esempio. Bravo. In situazioni dove è necessario affinché la cultura possa autoalimentarsi nel luogo in cui giustamente c'è fame di cultura. C'è assolutamente. Molta fame di cultura. Ma ci servono anche i contributi europei importanti, ma sapete, poi hai visto come ci giocano tra i nostri amici. Sì. Rendono questi editti invece che questi pazzeschi, dove tu devi fare questo tabulato, questo di richieste impossibili, non arriverà mai a nulla, nessuno li prenderà mai, rimangono lì in Europa, i soldi per la cultura si sparpacellano a pioggia, dando 1.000 euro a 1.000 persone, non ti serve niente a nessuno. Vabbè, ma questa è un'altra trasmissione, sempre su Radio 24, dobbiamo spostarci, però è giusto parlare anche di questo, va bene, anche... Quest'altro momento è terminato, questo blocco, ma rimane, insomma, tutt'altro, rimane tutta la trasmissione, ma parliamo ancora con te. Poi volevo dare anche la presenza al nostro amico Marco Fraleoni, questo poeta bravissimo, e volevo leggere un paio di poesie che mi hanno segnato un'epoca, perché sono 15 anni che leggo le sue poesie, almeno, anche 20. No, ma è bravo, è veramente bravo. E allora, tra pochissimo, sempre con i nostri amici qui a Palo Marchese, Albert Era, con il quale poi ci frequenteremo un po' di più fra pochissimo, e Marco Fraleoni, che daremo il benvenuto in questo studio. A tra poco, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci, come promesso, rapidissimi Voice Anatomy. Ci ha raggiunto Marco Fraleoni, che è un poeta romano e ha scritto questo libro che sta per uscire, che è Ecchime, tanto si capisce da là che da dove vieni, eh? Marco, tu sei di Roma, no, immagino? Sì, penso proprio di sì. Eccolo là. E sono poesie in verso libero e sonetti odierni in romanesco, che io ti ho sempre amato, perché mi mandasti tu una poesia tantissimi anni fa. Che ricordo. Che voglio leggere, ti ho avuto sempre nel cuore, perché sei veramente una persona dotata di grande sensibilità. Ovviamente potremo leggere un paio di poesie e darti questo spazio, non possiamo stare di più, però mi sembra giusto regalarti anche questo momento. Tu presenterai questo libro a Roma, a venerdì 23 giugno alle 20, a Via di Grotta Perfetta 555, che è l'antica locanda Palmieri, per cui si presuppone che se magni pure. Sì, e c'è la cucina... da mangiare le faccio io, che noi abbiamo una pizzeria e facciamo catering. Posso dire il nome? Sì, non mi ha mai detto questa cosa. La cucina di Flo. Bene, cucina di Flo, hai fatto pubblicità, tu mi devi regalare. Io sono pizzettaro vero, nel senso che mi piace la pizza da morire. Davvero? E mo adesso che hai fatto pubblicità a gratis, devi bussare coi piedi, come si dice a Roma. Te mi interfaccio un po' in questa lingua, no? È giusto che sia. Abbiamo due torinesi. Vabbè, siamo due contro due, dai. Sì, esatto, due torinesi. Due pari. Ma non conviene fare. Roma-Torino, Lazio-Torino ce può fare, ma Roma-Juve, Lazio-Juve no. Per cui cerchiamo nemmeno col Torino, va. E poi anche un concerto con i testi delle canzoni presenti nel libro, sono stati eseguiti da grandi professionisti, che uno è Vito Caporale, che è uno dei leader dei Barahona, e li conoscete perfettamente anche Albert, lo conosce bene, la grande professionalità di Vito e dei Barahona, Alberto Botta alla batteria, Guido Giacomini al contrabbasso, Carlo Ficini al trombone, per cui una bella serata, insomma. Sì, dai. Sicuramente sì. Io voglio leggervi la prima poesia di cui mi sono innamorato, della quale mi sono innamorato, che è Bobby il cane, che io credo che questa poesia, ascoltata, perché io non riesco mai a finirla perché mi commuove, e con tutte le pubblicità di non abbandonare gli animali eccetera, questa dovrebbe essere presa ad esempio e messa lì, anche se durerebbe un po' di più come pubblicità progresso, però è bellissima. Io ve la leggo, perché più di dire aggettivi non posso. Allora chiedo al mio amico Valerio se mi mette una musica, ecco, un cimnopedia addirittura, hai capito? Andiamo su Satin. E allora, bassala poco poco. Mi chiamo Bobby. Sono cane buono e snello, sono ubbidiente e bello. Essere fedele è il mio prezioso hobby. Ma mi è rimasto solo sto collare. E la storia mia ve voglio raccontare. Per due padroni senza dignità che mi hanno abbandonato per andare al mare. Per una strada buia camminavo e nel mentre che pensavo che fa di quella sera, una macchina mi prese e me la so lungo per terra. Quell'auto si fermò e tutto un tratto pensai, mo me dà la mano, che modestia. Poi vide quel fanale mezzo rotto e incominciò a strillare come una bestia. Lo vedi, sì, ci hai fatto. Vecchio cannaccio brutto, ma chi t'ha sciorto? Senza curasse manco se ero morto. E lì che lo guardai incagnesco e pensai, sì, mo me arzo. Ce provo, ma me sa che non ci riesco. E ce provavo, niente. Ce riprovavo, ma sempre inutilmente. A un certo punto chiusi gli occhi e non intesi più nessun dolore. Mi strinsi forte al petto quel collare che un giorno m'era stato regalato, prima che fussi solo e abbandonato. E me sognai quando ero cuccioletto. Che nome gli mettemmo, Book o Bobby? Le accortezze che mi usava il mio Carletto. La ciotola sta qui e il latte è fresco. Me si stringevano tutti forte al petto. Ero trattato proprio come un fio. E una cuccetta bianca, con sopra scritto Bobby, per nome mio. Mo sto a morire per una vacanza. E a ritrovarli ho perso la speranza. Ma l'unico pensiero mio è da rivedere Carletto. E se esistesse dei cani un dio, de dagli una leccata da me, con tanto affetto. Ste parole stanno a sortir dal cuore. Saranno state vane. Ma io non porto rancore. Io so Bobby. Il cane. Bellissimo. Bellissimo. È bella. È bellissimo. Guardate che si può leggere meglio, bene, male, musiche. Fa. È meravigliosa. Grazie. Ma bella, è veramente una. Uno dice una poesia, grazie, è una poesia. Cioè, tu quanti anni hai, Marco? Sei pure. 47. Ci pensa un attimo, capito? Perché mi sei... Io pure ci penso ancora più perché sono 58. Portati con grandi sacrifici. Senti, ne voglio leggere un'altra. La vorrei far leggere a Paolo, ma è torinese. No, onestamente avrei paura di sentire che come se io leggessi una cosa in torinese. È difficile. Posso fare la calata leggera. Però non. Quale vuoi che legga, Marco? Oggi faccio il protagonista. È vai, piaciuta al mio. All'introduttore. All'introduttore che è Renato Merlino. Merlino è piaciuto il cortile. Che è poi cofondatore del centro romanesco, sì. Trilussa, insomma. Il cortile dov'è? Il cortile non. Ah, lo devo cercare. Sì. Intanto c'è la storia si ripete, lunedì inizio la dieta, questo tutti noi. La farfalla e la cicala, un'altra bellissima, sì. Poesia, storia, l'usignolo fastidioso, il cane e l'albero che torna. E il cane, vedi, questo qui ancora non è stampato, per cui non abbiamo. Gli stormi, quello che sentite sono le pagine che sto sfogliando, le donne la mattina, ma ce l'hai messa? Una cena tra amici? Certo. Ma ce ne sta una che è divertente? Verano. Verano, dove? Deve essere allegra. Sì, questa qui, sì, però Verano no. È un posto, devo dire, che è bella, sì. Bel posto. Cioè, guarda, vabbè, meglio di no, dai. No. Un po' triste, però se vabbè, adesso ho mia madre al Verano. Vai, allora puoi leggerla, per favore. Io devo dire, mi ha insegnato mia moglie ad amare, come mi ha portato a Père Lachaise, al cimitero in Francia, dove c'è da Jim Morrison, Oscar Wilde. Mm-hmm. E c'è un'atmosfera che pensavo non ci fosse, invece quei silenzi sono molto assordanti. Allora, la leggo? Ti prego di leggerla. La leggo, perché... la leggo. Va bene, mi mette un'altra musichetta, le dispiace? Le do anche dei soldini se vuole, Valeria. La ringrazio. Cammino per Verano e scrudo il marmo e vo da nonno che sta alla scogliera. Me leggo qualche data e mi disarmo di tutto quel che mo mi mette in guerra. Cammino, sì, cammino, lì so calmo. Me scordo della vita, quella vera. C'ho stretti in mano chiusi sopra un parmo di fiori che appoggerò per terra. Poi sto da nonno, con durose appena. Me sento una vocetta. Per lo mio, non te commuove qui. Stai forte scena. Morivai fuori, attento, agli marpioni. E col pensiero, per l'amor di Dio, non te scordare via le munizioni. È vero, lì è terra di nessuno, terra libera. Ma sai cosa? Questa qui che c'è Totti col dito alzato, ma già gli ha dedicato la poesia all'ultima giornata, certo. Di Totti. Ma Francesco è un amico ed è stimabile. Abbiamo addirittura nell'ultima puntata che abbiamo fatto, nella penultima, che è andata di domenica, io ho dedicato 10 minuti al capitano. No, bisogna essere onesti intellettualmente. Se uno fa, no, i giochi goliardici come vuoi, ma di fronte a un campione che ha scelto di nascere, continuare e morire ovviamente artisticamente, tecnicamente nella stessa città, beh, tanto di cappello, dai, tanto di cappello, no, assolutamente. Magari no, magari invece il figlio, hai visto mai Cristian? Però è difficile con i figli d'arte così importanti, sai. Ah, c'è pure l'attore, hai fatto una a noi, è dedicata. Se vuoi leggere, eh, dai. Sì, dai, facciamo un'altra due prima che finisce questo blocco. Almeno stiamo questi dai. 20 minuti insieme dove diamo sfogo a tutto. Ovviamente non l'ho mai letta, fino a per cui chiedo scusa se mi perdo in qualche indecisione. Ovviamente, se Valerio vuole, cambiando musica, ce ne abbiamo un po', no? Sempre i stessi soldi, sì, sempre quelli. Tutti meglio Alessandro, guarda. Sta sempre in giro col copione in mano, senza una lira, senza una certezza. E fa provini quasi sempre in vano per guadagnarsi il parco e poi l'ebbrezza. L'ebbrezza, quello è il vero Toccasano, che fa scordare all'attore l'amarezza perché sta sempre solo e piano piano l'amori se ne vanno, che tristezza. Ma mo' è passato il tempo e si ritrova dentro un teatro pieno di persone. Non te lo può spiegare, sicché se prova. Tutta la gente in piedi, sì, l'adora. E solo lui prova sta sensazione. Pensa al passato, piagne e si innamora. È vero, c'è sto dualismo fra camminare sulle nuvole, coraggio infame. Il cortile, eccola qua. Oh, eccola qua, te la leggo. Tanto abbiamo ancora 2 minuti, Marco. Eccola qui. Ehi, abbiamo cambiato musica. Questo costa un po' di più. Questo è un Philip Glass. Questo è un pezzo bellissimo. The Hours. Te posso far vedere solo il cortile, dove ho passato quell'infanzia mia. Non è una reggia, ma manco novile. Per me è il più bel giardino che ci sia. Nascosto fra palazzi senza stile, tra un mercatino, un parco e ferrovia, i fiori lì sbocciavano d'aprile, ma mo sta gioia se n'è andata via. Quanto vorrei tornare solo un momento a risentì mia madre che strillava: «Via su, che è pronto!» Ma strillava al vento. E rispondevo: «Dai 5 minuti, dai 5 minuti». Ma lei mi richiamava e s'addannava. Quelli sono l'anni che se sono perduti. Eh sì, ma io poi sono attaccato a mamma, che se non so se a Torino era uguale, da ragazzini si affacciavano le madri e tu stai per strada, se poteva sta per strada. Gesù, 2 minuti, va! Io noi c'eravamo 3 che si chiamano Pino, quando dicevo Pino, mo chi sarà, tu madre, mia madre, fammo finta che non lo sapevo, rimanevamo altri 5 minuti, come al sasso a scuola. Marco, io ti ho fatto venire di corsa perché mi piaceva che tu ci fossi. Io questo libro me lo lasci, questo, certo, queste certo. Fotocopie, sì, queste copie. Poi manderò quello vero, che fra poco uscirà, diciamo, stiamo facendo gli ultimi aggiustamenti. Va bene, allora io ve lo ricordo, Marco Fraleoni, il libro Echime. Vi dico, guardate, non serve soltanto saperle leggere, bisogna leggere col cuore e con la testa. Tutti siamo attori quando leggiamo un libro o leggiamo la poesia. Il libro è evocazione vera, come la radio, come la voce, insomma, e ognuno si fa il suo film e la recita benissimo. E allora Echime, non vedo che esca, con la cucina di Flo, mi ricorda la pizza, all'antica Locanda Palmieri a Roma, via Grotta di Grotta Perfetta 555, venerdì 23 giugno alle 20. Grazie mille, mi ha fatto commuovere. Ah, guarda, domenica prossima non siamo ancora qui, se puoi portare la pizza e una cosetta a Catering. Invece mannaggia. Beh, te prego, non fa che sia stato in vano, guarda, questa sponsorizzazione. Organizzerò tutto. Noi a luna siamo qui. Facciamo anche sushi se volete. Ma tutto quello che poi metti, perché insomma abbiamo fatto pubblicità su Radio 24, allora, non è che abbiamo fatto su una radio provinciale. Vi farò una sorpresa. È facile sta sorpresa, vedete ragazzi, siamo un po' così. Amici della poesia e dell'arte, vero? Yes. Bene, a tra pochissimo, voi sanatomi. Sanatomi. Eccoci, 15:34 primi e 8 secondi, tanti messaggi di complimento, di saluti anche a Marco Fraleoni, sei un genio, ti adoro, amo gli animali, un altro non voglio aggiungere altro, bellissima poesia, un altro sei un ragazzo super sensibile, dice Francesca, invece Sofia è stanca del romanesco per radio, vabbè, ma insomma non mi sembra che ci sia questa invasione di romanesco, i dialetti sono delle lingue e quando sono utilizzati per raccontare una storia, una poesia, una canzone, ben venga il milanese, ben venga il brianzolo, ben venga il calabrese, ben venga tutto, non so, vabbè, ma ci sta, insomma, il mondo è bello perché è avariato. Allora, va bene, c'è qualcun altro che ha sbagliato la trasmissione perché ci dice: non potreste dire sacchetto obiettivo invece di shopper o mission? Non abbiamo ancora detto niente del genere. Non è nostra questa negatività. No. Andiamo da Albert. Caro Albert, anche tu, come ho detto prima, sei nato a Collegno, a Torino, sì, il 29 agosto del 67. Diciamo che non sei solo un cantante, tu sei un narratore di suoni, una sorta di antropologo vocale. È bello tutte queste narratore cose che suoni, sì. Narratore di suoni mi piace tantissimo. Tu, devo leggerla tutta, ci metto 3/4 d'ora a leggere quello che hai fatto fino adesso. Tu hai lavorato con i più grandi, poi soprattutto Bobby McFerrin, ragazzi, questo per capire che tipo di vocalità a confronto abbiamo. Se Bobby McFerrin ti chiama è come se Baggio mi chiamasse per fare due tiri in porta. vuol dire che insomma, no? È stata una cosa... Beh, una cosa bella. Allora, io ho preparato Alessia delle domande che, alle quali io devo attenermi. Ma proprio devo attenermi, altrimenti no, gli autori mi uccidono. Poi, ovviamente, le ammorbidirò col mio modo di essere. Però è giusto perché c'è uno studio su di te importante. Allora, sei un grande sperimentatore vocale. Ma il tuo primo avvicinamento alla musica non si consuma nel canto, bensì nello studio del clarinetto e del sassofono presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Mi racconti com'è venuta la svolta, o ci racconti ovviamente la svolta nel mondo della voce? Per caso. Come sempre, no? Tutte le per cose caso è molto tardi, intorno ai 23 anni, 23-24 anni. Beh, eri già un musicista. Sì, a 18 anni ho scelto di smettere di andare a scuola per dedicarmi con la musica, lo strumento, il sassofono. Sono entrato per campà nella musica da ballo e con il sassofono, e a un certo punto, nel periodo della mia vita, facevo i cori. Il chitarrista praticamente decide tutto ad un tratto di andare via da questa orchestra, e il giorno dopo il capo orchestra mi chiede: ti va di cantare Piccolo Fiore, Teppisti dei Sogni? Ah, non era un mezzeggiativo nei tuoi confronti? No. Non ha chiamato Piccolo Fiore, vieni, no, no. Mi canti una canzone. Mi disse ti va di cantare? E io dissi: sei convinto? Lui mi disse: sì, provaci. E da lì ho iniziato questo percorso che mi ha aperto, devo dire, un altro mondo, quello della comunicazione. Cioè, la musica fino a quel momento con il sassofono era il mio modo per esprimermi. Da quando ho cominciato poi a cantare ho capito che avevo proprio bisogno di parlare con i miei suoni, perché parlavo sempre dentro di me e non avevo voglia di esprimermi. Il tuo esperanto, insomma, sì. La tua lingua l'hai tirata fuori. E devo ringraziare quell'uomo perché giustamente mi ha dato la possibilità di essere qui adesso. Quelli sono gli sliding doors della vita. Sì, che all'improvviso, sì. Da una cosa brutta poi nascono sempre, spesso da un abbandono, da qualcosa nasce poi, chiusa poi, la porta. Non c'era il talento e quindi ho dovuto, con grande sacrificio... Era nascosto, diciamo, era come nascosto, dice Michelangelo, sì. Stava già nella forma di marmo quello che ho tirato fuori. Ho dovuto sacrificare tanto della mia vita studiando e con tenacia mi sono abbattuto di fronte ai problemi che naturalmente il non talentuoso ha. Quell'umiltà ti ha permesso di arrivare ad oggi, ad essere quello che sei, e adesso lo dimostreremo. Penso la tenacia. La tenacia, l'umiltà, la forza. E rimetterti in discussione ogni secondo, ma credo che sia il segreto di ognuno, no Paolo? Sì, fondamentalmente sì. È la cosa migliore al mondo, ricominciare da capo, ogni giorno, un giorno nuovo, non l'ultimo, perché certe volte sarà così, magari il primo, no? Ma questo è, penso che in questo momento sia felice delle scelte che ho fatto e di andare avanti con una certa etica e di coerenza su quelle che sono le mie scelte. Dio, se fossi un politico ti voterei subito. Quello che hai detto è una parola magica, coerenza, scelte. Ed è difficile, cadi, ti rialzi, in continuo. Questa società ti permette di crescere, però nello stesso tempo cerca di segarti le gambe e di buttarti per terra. E questo è un po'... lo sento e in fondo sempre quel credo che anche quando insegno è che dipende da noi quanta, non tanto speranza, ma credo diamo ai ragazzi per andare avanti con l'arte. Ecco, tu, credo che tu stia facendo questo, insomma stai creando dei tuoi prolungamenti, sì. Naturali, e allora domani dopo Albert e Era continueranno, sì, questo è fondamentale. Fondamentale. Albert, ci regali, prima di andare avanti con il tuo percorso, che voglio che sia filologicamente giusto, il tuo crescendo, la tua carriera, però tu hai portato un mixer, sì. Microfono, cioè, ci dai un piccolo esempio, perché voglio camminare quello che vuoi tu, perché voglio che tu ti avvicini a quel microfono più di una volta. Ecco, sta provando, per capire che cosa fa con la voce quest'uomo. È sempre lui in diretta, eh? No, sta succedendo qualcosa. Aspetta, qui capiamo che è diretta. Ma è giusto. Non c'è. Lo proviamo nella pausa pubblicitaria, perché c'è adesso un problema del microfono, dello scroscio del microfono. Dove? No, lo proviamo fra pochissimo. Lo posso anche fare qua, guarda. Facciamo prima. Ah, fai anche senza. Hai capito? Non ti vergogni. Che diamine. Forse è meglio qua, così almeno abbiamo evitato. No, lì è equalizzato nel modo favoloso, per dare la profondità giusta. Ma adesso lo proviamo, fra due minuti andiamo in pubblicità. La pausa lunga qual è? Alle 4, vero? Allora, fra un altro blocco lo proviamo, okay, per renderlo, perché è proprio un fastidio di connessione sì, elettricità statica, ma non voglio dire amenità. Però, capito? Mamma mia, questi sono studi, questi sono percorsi. Dico, lo stasofono non lo usi più perché te lo sei ingoiato. No, è ancora lì che mi sta richiamando. Sì, eh? Sì, sì, è più che altro il soprano, è lo strumento che adoro. Bello. Come strilla, come strappa. Ascolto ancora molta musica dei sassofonisti, quello sì. Gatto Barbieri ti piace così? Sì, sì. Io sono verso l'area Fusion, Michael Brecker, Bob Michael Berg, Eric Marienthal. Sto anch'io verso quell'area lì. Sono cresciuto con quel tipo di sassofonisti sì, avanguardisti, tenoristi o contraltisti. Poi c'è il mainstream di Kenny G, eccetera. Sì, eccetera. Vabbè, quello sull'aeroplano, c'è anche Santo e Johnny, però... Kenny G va bene, ti ringrazio per averlo nominato, perché è giusto, io dico sempre, è mainstream anche io questo. Ascolto Albano con tutto il rispetto, ma fino a che Jarrett arriva, cioè, è bella nel sole come è bello Concerto a Colonia, cioè, non è che dico, però nel sole non ha quel pianoforte di che non ce l'ha, non deve averlo, è come se un comico. E dentro di me c'è il sassofono sempre che canta, Io ho più la tromba dentro. Tu che strumento hai? Mi sai che sono sul citofono. No, tu non suoni nessuno strumento? Ma io ho suonato un pochettino il pianoforte e la chitarra da ragazzo, ma poi li ho un po' persi per strada. La musica deve essere presente in ognuno di noi. Non devi saperla suonare, devi amarla. Ma io ne ascolto tantissimo. Sarai sicuramente un uomo migliore se ami la musica e se sai suonare lo strumento. Anche se fai l'avvocato, lo dico sempre: suoni il pianoforte e sei un avvocato, sarai un avvocato straordinario. Sei un medico e suoni il clavicembalo, sarai un medico straordinario. Basta che non lo suoni su di me, perché no. Esatto. L'importante è quando stai operando, quello è importante. Senti, che cos'è che ti ha ispirato nella tua ricerca vocale, Albert? Cominciando a dire sicuramente prima. Demetrio Stratos, ecco, è stato suonare la voce, quindi il video, il VHS, giustamente, perché a quel tempo non c'era DVD, c'era VHS. No, forse non c'era neanche quello ancora. mi affascinò il suo pensare la voce, sì. Il suo mettersi in discussione, la sua voglia di dove può arrivare la voce. Sì. Lì mi affascinò talmente tanto che credo di aver dedicato forse il periodo nello studio, dove le ore erano veramente tante nel quotidiano. Notte, giorno, registravo la mia voce, mi mettevo in questa... avevo una stanza adiacente alla mia casa, dove vicino alla cantina, dove mi isolavo per ore e ore e ore, semplicemente alla ricerca di quel suono che era il canto difonico, diplofonico. Sì. Okay. Riesci a farlo riesci a farlo bene? Sì. Prima hai fatto un passaggio. Sì, quello che ho fatto prima come esempio è l'utilizzo della body percussion con i due sistemi, sia della bass line che della parte, diciamo, melodica. Tu usi tutto, il tuo corpo è lo strumento, è lo strumento. Infatti io lo urlo ancora da questi microfoni, insegniamo ai nostri figli a scuola a utilizzare questo strumento, siamo nati con la voce. Io dico dobbiamo sempre saperla come usare. Il flauto dolce è interessante. Sì, però che palle. Però che palle. La voce. Sti ragazzini sempre. Piri, piri, piri, piri. Sembra il paradiso può attendere che suonano soltanto. Mamma mia. Tutti con sto concertino de flauto, io capito, ma no. Non volevo tirare fuori questo, però... Tiriamo fuori il flauto, però, si può tirare fuori, di plastica, orrendo. Va bene per cominciare a fargli amare la musica, ma non solo quello. Basta. Abbiamo la nostra voce. Insegniamogli da dove viene, come si può utilizzare, non la bella voce, non serve i piccola, ciao, no. La voce da utilizzare a muovere, il diaframma dov'è, a che serve le pitolottide. Ciao, siamo capito, sai. Così. Va bene, a tra poco signori miei con Albert Era e Paolo Marchese, voi sanatomi. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Anatomy. Bentornati signori miei, 15:47 primi e 35 secondi, sempre Albert Era in questo momento protagonista di questo momento di Voice Anatomy, sempre accompagnato questa volta da Paolo Marchese in leggero secondo piano rispetto a queste avventure antropologiche e vocali. Parlavi di Demetrio Stratos, abbiamo dedicato una trasmissione intera parlando anche con la moglie Demetrio Stratos, con l'amico Diego Cossu, Fussi, insomma tutti persone grandi, che tu conosci, sì, sì, perfettamente. Abbiamo fatto un bellissimo percorso di 2 ore e 50 su Demetrio Stratos, che ha regalato la sua vita, la voce, che poi non è morto per quello, ma fatalità, no? Ha cominciato la gola, il male che l'ha portato via, quel giorno incredibile dove c'era quel grandissimo concerto che avrebbe aiutato all'Olimpico. Sì, ha aiutato a lui per pagare le spese, tutti i più grandi sono scesi e sono rimasti, ed è nato poi un bellissimo DVD e sì, CD. Suonare la voce. Sì, bellissimo, bellissimo. Per cui Demetrio Stratos ti ha accompagnato, sì, è stato lo sliding doors della tua vita. E poi Bobby McFerrin. Bobby McFerrin, con il quale hai collaborato e collabori. Sì. Beh, adesso sono 2 anni che non ci frequentiamo. Io sono 58 che non lo frequento, per cui insomma puoi immaginare. Beh, la bellezza di questa esperienza con Bobby è... mi ha formato a 360 gradi. Bobby McFerrin, per ricordarlo ai più, tutti ricordano ovviamente Don't Worry Be Happy, no? Perché Don't Worry Be Happy, ma dove dovete sapere che tutti gli strumenti li fa lui. Yes. Tutti con la sua voce. Ha fatto pure una colonna sonora bellissima, che è Ritorno il figlio della Pantera Rosa con Benigni, dove ha fatto il tema soltanto con la sua voce declinata in tutti i modi. Ovviamente registrandola su varie piste, non è certo freestyle, è proprio... ma strepitoso. E tu, Lego, come siete conosciuti? Per puro caso. Non lo sto a raccontare perché è una storia con... Bella, interessante, no? Cioè, è possibile incontrare anche grandi? È possibile in un modo molto... impossibile. Impossibile, perché parte tutto da un sogno. Ho passato un periodo della mia vita in cui non vivevo nell'oro, ecco. Quindi dovevo saltare il lunario con tanti aspetti. E uno di questi, giustamente, era suonare, cantare, insegnare, cercare di vivere la musica a 360 gradi. Era il mio desiderio, il mio sogno. A un certo punto sogno San Francesco che mi dice: guarda, quando meno te l'aspetti, vieni a trovarmi il 2 agosto, che quando meno te l'aspetti accadrà. E io, giustamente, pazzo come ero... certo. Ho detto alla mia andiamo compagna. Ad Assisi. Sì, andiamo ad Assisi, siamo andati giù. Parte comunque una bella gita, perché, insomma, l'Umbria è meravigliosa. Il 3 agosto, giustamente, dico: vado a Santa Maria degli Angeli, ok. E naturalmente vado per dire una preghiera, mi metto in ginocchio, a fianco a me c'era Bobby McFerrin che pregava. Vabbè, ragazzi, aspettate, perché la situazione nasce molto prima, perché io nel 2002 ripresi di nuovo a cantare, era il 19 settembre del 2002, dove Bobby fece un concerto all'Ingotto di Torino. E lì avvenne tutto, perché poi dopo decisi di riprendere la strada del canto il 20 settembre, quindi il giorno dopo. E l'aneddoto è il seguente: a quel concerto ero l'ultimo della fila, perché ci chiamò una ventina sul palco, e quando arrivai per salutarlo, lui non mi salutò, okay, non mi abbracciò, dopo averli abbracciato, e mi fece una mastè. E da lì... c'è stato un segno di rispetto maggiore. Ma non lo so cosa sia successo. Forse e da lì... ha visto Laura. Non lo so. L'apostrofo Laura. Comunque nel 2004, questo avvenne nel 2004, questa cosa, ok? Feci poi un viaggio l'anno dopo di ringraziamento, perché poi mi cambiò la vita da quel momento lì in poi. Nel 2006 incontrai Roger Treese, che diventò poi l'arrangiatore di Bobby McFerrin, e E da lì, grazie a Roger Triss, Roger Triss parlò di me a Bobby, a un certo punto ricevetti da Linda Goldstein un'email nel 2007 dove mi chiedeva di andare a incidere con lui Vocabularies, che è il che poi è stato candidato a tre Grammy Awards, ha vinto il premio miglior album di World Music ai prestigiosi Image Awards. Sì, con 50 cantanti da tutto il mondo. Questa è stata l'ulteriore bellezza, che mi chiamò poi successivamente in un suo spettacolo, un musical improvvisato, Bubble si chiama, dove mi richiamò a fare il basso in quel concerto, e dove, devo dire la verità, quei momenti sono ancora parte di me, mi commuovono ancora, perché comunque tutto da un sogno. Adesso essere qui a raccontarlo brevemente, perché poi dopo dentro ci sono tutti gli aneddoti. Guarda, questo dà forza sempre a quello che io urlo attraverso i microfoni e quello che faccio nella mia vita quotidiana con le persone. Cioè, nel senso, il sogno dipende da quanta intensità lo sogni, e si realizza sempre devi costruirlo, ovviamente, il percorso per realizzarlo, non è che basta sognarlo, ma è l'intensità. Non è, nessuno nasce con quel nome e cognome e diventa quella persona perché ha quel nome e cognome. Dipende dagli incontri, ci fortuna, caso. San Francesco, vabbè, diciamo che è stato San Francesco, ma io non credo che San Francesco sentia musica jazz. Io ho preso comunque la panda e sono andato dal Piemonte. Come si dice a Roma, per non sapere né leggere né scrivere, io intanto dovrete, ci vado, poi vediamo. Vado. Poi casomai dico San Francesco, la prossima volta dimmi delle cose. Ma adesso dovessi sognarlo io, ti metti seduto e vicino c'è Martin Scorsese, ma non ho capito. A Bibbo Valenzi. Così vai e da lì nasce un film. Come è nato un film? Ah, è una storia bellissima e particolare, di come a volte le cose sembrano casuali, ma forse non lo sono casuali. Io sono qua adesso e mi rendo conto di questa storia della mia vita, che è basata comunque da un principio di rottura, quindi di credo, di andare avanti, di non mollare, certo, mai non mollare. Di non essere... Non crede neanche ai giudici, che in quel momento ti dicono lascia stare. No, se tu pensi al mio primo turno di doppiaggio, una signora, pace all'anima sua, mi disse alla SAS: ma chi l'ha chiamato questo? Tu non farai mai sto mestiere, te lo dico io, ragazzi. Ecco, no, per esempio, io sotto una casa ho pianto, però poi non ho mollato, ho continuato, ho creduto, sono venuto in auto sulle corde vocali, ho detto li manderò via. Qualcosa succede. Ma penso che è la forza di credere in quello che stiamo facendo, sì, che ha il suo perché. E poi siamo, come dicevo sempre, noi siamo come il filamento della lampadina, non siamo la luce, siamo solo persone che portiamo quello che sono il messaggio, e poi quello che sarà, però dobbiamo essere coerenti su questo aspetto. Cioè dare siamo il filamento della lampadina, è bella, l'ho detta io queste. Sì. No, è tua. No, sì, lo so, no. L'avevo solo rubata, no, solo chiedevo, perché mi è piaciuta molto. Bella come immagine. Facciamo passare qualcosa, e dobbiamo far passare non qualcosa. Non siamo la lampadina. Perché sennò sarebbe un io che si esprime. Invece penso che quando siamo, adesso vedevo te prima che leggevi, cioè siamo qualcosa che è un veicolo, un mezzo. Benissimo, e allora... Voi sanatomi, anche questo mezzo per farvi amare la voce, nonostante Sofì dice che non si ricorda altri dialetti né altre poesie, ma godi di questi momenti. E allora noi andiamo in pubblicità leggermente più lunga, così proviamo anche gli effetti del nostro amico Albert Era. Rimane ancora Paolo Marchese. Sì. Tra poco con Voi sanatomi, questi straordinari ospiti e questo viaggio metafisico oggi che ci sta concedendo Albert. Grazie. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Sanatomi. Eccoci di ritorno dopo le notizie, un po' di traffico, un po' di pubblicità, 16:06, e 41 secondi, sempre Albert Era che con la sua voce ipnotica ci dice, Sofì ci sta accompagnando in un mondo meraviglioso che è quello della voce, noi vi accompagniamo da 2 anni, insomma, va bene, va bene. Cerchiamo di conquistare le persone in qualche modo, insomma, sono oggi in quanto a voci stiamo messi bene. Sì, devo dire che insomma, io e te adesso sembriamo due veramente folli rispetto a questo signore che c'ha la polifonica disfonica di tutto. Funziona adesso l'apparecchiatura? Vediamo un attimo se riusciamo a fare. E allora accompagnaci nella magia della polifunzionalità della voce. Eccolo, Stratos. Pazzesco, ecco, ovviamente non su un disco di Demetrio Stratos, ma dal vivo. Questo è uno profondo studio, questo è veramente da illustro al titolo. Questa è anatomia della voce, davvero. Voice Anatomy è questa cosa qua. È questo. Secondo me non c'è altro, è questo, è la sigla. Difficile perché ti sei andato, apparentemente in un attimo hai attraversato il mondo. Sei passato dal suono polifonico dei santoni, ti è andato in Oriente, sei andato in Occidente. Per quello Soundteller. Raccontare con i suoni in modo che la gente possa viaggiare. Sì, perché poi ecco, uno sente quel suono, magari fa anche un sorriso, no? Se sente, sei un profano, un laico, senti questa voce, quella, soprattutto quella bassa che hai fatto, che è un suono tipico forse di monaci tibetani. Però c'ha un motivo, c'ha una storia quel suono. C'è uno studio profondo, ma racconta soprattutto un'emozione, ti porta in un mondo ipnotico davvero di grande rilassamento, cioè questo è pazzesco. E tu qual è il tuo interesse di comunicare attraverso tutto questo? Cosa vuoi comunicare? A parte insegnarlo, ma... La libertà, l'estetica, penso che, come dice Howard Gardner, la verità, la bellezza e la bontà sono 3 elementi soggettivi. Prenderne atto e portare come proprio mezzo di comunicazione in relazione a quello che è il proprio sentire, accettando anche giustamente l'altra parte che magari non accetta quello che stai facendo. Però trasmettere sempre non tanto una verità che debba confermarsi, ma la tua verità per quel momento in cui tu la esprimi. Questo penso che sia il messaggio che cerco di essere coerente ogni giorno quando affronto poi naturalmente un concerto in cui non dico una parola. Che è strano, non è una contraddizione in termini, no? Non dico una parola ed è un concerto di canto. Sì, mi esprimo con i suoni, vado in Cina e mi comprendono, vado in Azerbaijan e mi comprendono. È un po' tornare indietro nell'utilizzo della voce in modo ancestrale. Ancestrale, vero, sì. E lasciare che ognuno di noi possa immaginare quello che è il proprio sentire da quel suono. E penso che questa sia anche un'espressione di libertà dell'ascoltatore. Questi sono i suoni della placenta pure, magari. Questo è giustamente non me lo non ricordo. Possiamo saperlo, però magari... Però penso che ho scelto di fare questo proprio per questo principio, come ti dicevo, libertà di espressione in cui le parole sono all'interno sicuramente, ma sono nuove, magari sono... mai, sono dei fonemi, o passami ancora il termine linguaggi primitivi, sì. Ok, come è proprio antropologia della voce, questa, sì, come dice il mio amico Gegè, sì, Gegè Telesforo, che salutiamo, che ci ha telefonato poco fa, persona grande, straordinaria, grande, sì. Gegè, grande. Allora. e questo è quello che continuo a fare anche con i ragazzi. Ecco, questo è quello che tu vuoi, a parte la tecnica, ovviamente, sì, che c'è di base per forza, la tecnica non si può lo arrivare. Studio, guardate, è fondamentale. Studiare non è un obbligo, è un piacere. Dobbiamo un po' anche sfatare questa frase che è la scuola dell'obbligo. Io preferisco la scuola del piacere. Esatto. E quindi andare ma a... soprattutto dare ai nostri docenti una voce necessaria per farla comprendere ai nostri allievi. Non solo la voce, ma anche i mezzi e la preparazione, purtroppo. Ma il modo di esporre, ormai di... Cioè, se tu insegni questa cosa trasportando le persone, interessando le persone, sì. È ovvio che ti entusiasmi, è come lui si entusiasma ascoltando questo signore, questo Stratos, sì, che emetteva questi suoni, tu trovi quella persona che ti fa amare quel percorso e tu cominci a sarai un uomo migliore. Io mi ritrovo molto sul concetto del lasciare interpretare alle persone, e lo utilizzo anche io per il teatro, cioè non voglio dare un prodotto per cui la gente sia passiva, cioè è un messaggio, quello è. Per cui no, si appassioni. Voi dovete immaginare di ritrovarvi in quella scena, in quel pezzo, in quello spettacolo. E però non tu vi sei il veicolo, come dicevamo prima, esatto, tu devi essere quel veicolo. Esatto. Tu sei il taxi che li trasporta. Esatto. Sì, ma è un po' anche tornare indietro, un po' nella maieutica, farsi questa domanda continua del tirare fuori dall'altro la propria risorsa. Cioè io penso che questo, rifacendomi a un grande... pedagogo che si chiama Ken Robinson, Sir Ken Robinson, che dice che basta con una scuola basata sulle mancanze, ma ritroviamo un po' le risorse di ogni persona. Questo è il Circle Songs su cui tu... Sì, mi baso su questo, cioè l'espressione in cerchio, la volontà di stare insieme, di viversi non tanto per altezze, ma per... Questa era la puntata che dovevi essere con... la prossima volta con Enzo Avitabile. Enzo è uno studioso di tutto questo. Lui l'ultima cosa che ha fatto con la regia di Jonathan Demme, penso, un regista che non c'è più da poco, regista del Silenzio degli Innocenti, eccetera, ha fatto questo Music Life, dove lui in circolo, in questa chiesa sconsacrata, si è unito vocalmente con tutto il mondo. Lui in napoletano, con tutti gli strumenti di tutto il mondo, in tutte le lingue del mondo. Grande. È una persona straordinaria, per cui secondo me verrebbe un matrimonio fra voi pazzesco. Pazzesco. Chissà se l'incontro avverrà. Succederà, ma io posso essere soltanto un ottimo veicolo, diciamo un lobbista d'eccezione, da questo punto di vista. Perché mettervi insieme sarà una bella puntata. Io voglio mettere insieme te, Enzo Avitabile, e poi i nostri amici Cossu e Franco Fussi. Sì. Insieme, io mi metto in un angolo, oppure Paolo verrà, se mettiamo in un angolo, ma è lì ascoltiamo. Soltanto un input leggero e mandiamo. Enzo Avitabile è un altro che fa questi percorsi. Mi piace questo Circle Songs, può significare tutto. Che poi è Circle Singing. C'è il cerchio. Il segreto è il cerchio della vita dei nativi americani, no? È il cerchio. Già anche in Africa, giustamente, il cerchio è un punto di incontro e di dialogo. Io penso che già nelle classi, invece di porsi in questa forma allineare, esatto, possassi un po' nella struttura circolare in cui l'insegnante non è al centro, ma è insieme. Esatto. No, ma è quello. Ma è il segreto della vita. Se interrompi quel cerchio, si interrompe tutto. Ma... è il segreto della vita, basilare. Base. Io levo quella pianta lì perché mi serve per mangiare bene, però dobbiamo irrorarla quella parte per farne crescere un altro. Dobbiamo mortificare tutto quanto. Uccido un bisonte perché mi serve per mangiare. Il sangue mi serve per irrorare la terra, la pelle per coprirmi e farti la casa. Insomma, nulla va sprecato e tutto è connesso. Che bella puntata, mi sento migliore oggi. Rimani anche stata domenica. Veniamo tutti qua, ci facciamo una bella seduta. Tanti bei messaggi. Offerta Vodafone Voice Anatomy a 27 centesimi, bellissimo. Ma scusa, da che pianeta arriva? Ce l'ha con te. Sì. Cosa ne pensa del grande Al Jarreau? Dice Fabio. Però dobbiamo andare in pubblicità, ce lo dici fra poco. Vai. Okay. Voice Anatomy. Eccoci, Eccoci, mi devi aprire il microfono però, Valerio, sai, è fondamentale. Eccoci, ah no, era aperto, però era aperto anche di là. Stavamo cercando qualcosa, mi parlava questo nostro ascoltatore Fabio di Al Jarreau, l'indimenticato, a me piaceva tantissimo. Al Jarreau, è stato anch'esso parte del mio percorso di passami il termine, cultura nel canto. Perché comunque ha fatto la storia, il suo Spain ha fatto storia, tutta l'area Roof Garden, Boogie Down, tutto quello che è il periodo, diciamo, fine 70, inizio 80, ha dato forza a quelle... Sì, Breaking Away, cioè Hell Is All Over, cioè... parliamo di cose che ormai, come dicevi tu, penso non accadranno più. No, però bisogna farle ascoltare. Bisogna farle, giustamente, anche i figli degli altri, un modo di cantare fuori dagli schemi, con questo suono ipernasalizzato, sì, è vero. Con un controllo di grande capacità sia nel schettare che nel far comprendere le emozioni con la propria voce. Abbiamo un Al Jarreau qualcosa? Abbiamo al volo, questo è Bobby McFerry, per farvi capire Simple qual è stato pleasure. il collega di percorso del nostro amico Albert Era. Pensate che non fa mai questo brano, ma certo, dal vivo, posso immaginarlo. Che più non fa più. Come Papa Pig, come The Worry Be Happy sta Papa Pig, come Bobby McFerry sta Paolo Marchese, eccolo. Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. E poi questo è un augurio proprio di vita, no? Non ti preoccupare, sii felice e basta. Beh, vai avanti, dai. Robbie Williams, c'era dentro, sì, il video. Pensa, ironia della grande sorte. Che grande connubio, anche sì, questo. Che peccato anche quello. Non so, una depressione. Non sapremo mai. Uno pensa, dice, ma come c'hai tutto? C'è questo, c'è questo. Chissà cosa gli mancava a Robbie Williams. Non lo so. Aveva anche due belle voci che lo accompagnavano in Italia. Carlo Valli e Marco Mete, bravi. Infatti. Ma non credo che ci abbia mai pensato. Io l'ho incontrato, ho avuto la fortuna di condividere lui una puntata del Costanzo Show e ce l'ho ancora registrata perché venne ospite. Io ho cercato di prenderci confidenza prima che cominciasse la puntata, perché è molto disponibile come tutti i grandi. E ci ho giocato, ci ho scherzato. Costanzo era ignaro di tutto questo e quando è cominciata la puntata ha fatto: hai visto un segno? Che puntata che c'è, questo qui non sa manco chi sei, che fai, tu te potrai vantare con i tuoi figli, che questo e quest'altro. Io ho fatto: veramente siamo amici, no Robin? Hello Pino. E abbiamo cominciato a cazzeggiare per 10 minuti facendo scene di film, Il Padrino, Rocky, Taxi Driver. E lì Maurizio si mangia solo la panza che rideva e ce l'abbiamo registrato. Ho detto: beh, vedete, sbaglio, che io insomma in America sono veramente conosciuto. Insomma, è stata nata una gag con Robbie Williams indimenticabile per quanto mi riguarda, insomma. Ed era una persona felice, però vabbè, valla a sapere, insomma, qual è. Bisognerebbe sapere delle cose che stanno nel cuore di questi personaggi come Tenco, no? Che dove è andato, perché l'ha fatto. Aveva un cuore gigante, delle musiche già presupponevano forse qualcosa, però, no? Cosa pagheresti per essere vicino? Magari fermarli in qualche modo, cambiare la storia, che poi magari rovini tutto, non lo so. Vedi in dove stai a trasportare Albert, stiamo andando nella filosofia di poterci parlare e dialogare in modo aperto, parlando di musica, di arte, arriva di, tutto, sì, sono racconti di vita, poi alla fin fine sono quelle sedute arcadiche meravigliose, no, che si facevano una volta all'inizio del Novecento, all'Ottocento, dove queste riunioni arcadico c'era il poeta, il pittore, l'artista, l'attore, tutti si parlava, si comunicava e uscivano fuori capolavori dopo quei dialoghi. Veniva una contaminazione pazzesca, come quella che viene quando fai musica contaminata, certo, con tutto il mondo. Certo, certo. Vengono delle realtà inimmaginabili. Mi vuoi regalare? Abbiamo trovato una Jarro? Allora! Yeah! Apri il microfono di Albert. Partito, partito. Quella voce nasalizzata che questo cambio di tonalità è capito? Fantastico. Loro possono cantare sotto la doccia mettendo un disco. Noi questa voce non ci arriviamo. No. Questa è fantastico. Lui è straordinario. Funk, sì. Groove. C'è tutto. C'è tutto. C'è il soul. C'è proprio, due volte lo ascoltai dal vivo a Torino. C'era una volta, c'erano i Punti Verdi a Torino negli anni 80. Dove a Torino è rinata bene. Devo dire, è una città che è I Punti Verdi non ci sono più. No, adesso, questi non ci sono più. La Pellerina era fantastico. Gli anni 80 regalavano questi grandi concerti. Ho ascoltato di Dizzy Gillespie, Eddie Gomes, Steve Gadd, Ajarro, Michael Brecker, Mike Manieri, Steps Ahead, cioè roba di... Però ci posso aggiungere un aneddoto molto simpatico. Una sera ai Punti Verdi, appunto, durante l'intervallo, durante l'intervallo, la voce dell'annunciatrice che dice: domani sera al teatro al Castello del Valentino verrà proiettato Scarface. Scarface. Con Al Pacino. Questo è il torinese, vero? Quindi non è il fatto. Sofì sarà contentata di questo momento. Così almeno ci siamo andati da un'altra parte. Poi parliamo pure un po' siciliano. Che bello. Grande. Trovi un altro pezzo di Al Jarro. Breaking Away mi piace molto. Più... Sì, ma a parte che la può cantare pure Albert qui. Messaggi bello. Albert era ragazzo sensibile e molto modesto, molto preparato e saggio. Studiare non è un obbligo, è un piacere. Parole sante e benedette, dice Francesca. Forse ha avuto paura dei riflettori che volentano lente prima o poi si spengono e non ha retto, dice Stefano da Firenze. Forse Robbie Williams, riferito a lui. Ma sai, faceva un po' tutto, non lo sappiamo, sai, quando la depressione purtroppo è una malattia e non possiamo parlare soltanto con dei psicologi e psichiatri, eccetera, è una malattia chimica che a qualcuno vai giù di morale, stai giù, poi ti riprendi, rinasci, c'è qualcuno che non ritorna più perché bruci, magari non sei più in grado di proporre delle endorfine nette, la tua amigdala funziona sempre meno e lì hai bisogno di un aiuto vero, vero, vero importante, che poi certe volte, ecco, guardate pure Michael Jackson che si faceva anestesia totale tutto il giorno per poter vivere. Grazie per la risposta, ho 48 anni e lo ascoltavo a 8 anni, mi dà sempre emozioni, parla ovviamente dei nostri musicisti e tanti altri complimenti, questo è Al Jarro. Beh, vabbè, ma insomma, mi sembra un percorso di educazione musicale goliardica, nel senso che è bello far conoscere le persone con grande semplicità qual è il veicolo che stiamo, su quale siamo, insomma. Il modo migliore per insegnare è anche far amare alle persone che hai di fronte quello che stai dicendo, quello che stai facendo, quello che diciamo prima, insomma. Se andiamo soltanto sulla tecnica, sul quadro, sul periodo storico, eccetera, non raccontiamo cosa c'è dietro la vita di quell'autore. Adesso per esempio ho prodotto uno spettacolo che poi ha fatto Alessia Navarro, un grande successo, Frida Kahlo, che io non conoscevo bene tanti anni fa, poi ovviamente l'ho conosciuta grazie alla sensibilità di Alessia e ho cominciato ad amare perché ho conosciuto il personaggio raccontato nella maniera giusta e allora cominci a capire perché ha fatto quel quadro, che vita ha fatto, che cosa c'è dietro, un interesse che ti smuove, ti muove e cominci ad amare. E così questi ci ragazzi ci vuole la passione, curiosità, per quello che passione, si fa, tutto. Se insegni con passione gli alunni, gli allievi, tu sei a Crotone, vero? Tu vedi la cosa bella che avete scelto, tu a Grottaglie, sì. E tu a Crotone, sì, Crotone, Milano, Roma, insegno Bologna. Crotone, Modena e Lucca. Ah, vedi, è un bel percorso, sì, insomma. Sono luoghi in cui ritrovo il piacere di... Lucca, di... sì. Sì, Lucca, fra le mura, sì, magia. È un posto fantastico, è vicino anche a casa, un'oretta da casa, quindi... È vero, tu sei in Toscana, sì, in Toscana, sì, adesso. Hai fatto come Sting, ti sei ritirato in Toscana. Sì, mi sono ritirato, sì, mi sono ritirato in Toscana. Ti sei ritirato, per modo di dire, perché ti concentri bene. Sì, beh, lì l'ultimo CD è nato lì, poi si è chiuso lì. Ok, l'ultimo CD. Quando è uscito questo? L'anno questo scorso. L'anno scorso. Non me l'hai portato? Sì, ce l'ho qua dietro. Ce l'ho qua dietro. Non ti ha dato il nostro Ma sta tranquillo, ma sono qua, sono qua per te. Sono qua per te. Insomma, parliamone anche di questo. Cioè, non è venuto un minuto ma e sai, dice, io sono venuto qui a fare pubblicità. Abbiamo una trasmissione che per tre ore si può parlare. Guarda, io penso che sono qua perché ti ringrazio. No, ma ringrazio te. Giustamente, sai perché? Perché un anno fa, proprio oggi, che l'11 giugno usciva il mio CD. Quindi un guarda, anno... stiamo andando in pubblicità, adesso tu dai subito il tuo CD a lui, anche se tu dal vivo sei straordinario. E Valerio, dando sempre una cifra extra a quello che guadagna, riuscirà a mettere anche una track, se due mi raddoppia, e lui è così. Mentre quando c'è Alessandro c'è amore, c'è curiosità, c'è passione. Qui c'è solo lucro e basta. A tra poco, poi sanatomi. Sanatomi. Eccoci signori, 16:32, si sta disquisendo qui fra me e Paolo Marchese, molto affascinati da Albert Era. Assolutamente sì. E ha tirato fuori questo album Solos, con la S sì. ultima al contrario, che poi non sei più Solos, per questo hai chiuso questo CD sì. o album, come ci piace sì, chiamarli sì, sì. Una volta, infatti leggo una dedica bellissima a Vanessa, che immagino sì. che sia il motore immobile, il deus ex machina in questo momento è la persona che mi sta a fianco con tantissimo amore e con grande dedizione a stare a fianco a un uomo che giustamente ha scelto di essere artista e non è semplice. Però che state camminando insieme, sì, insieme. Lei mi stavi dicendo è neuroscienziata sì. Beh, diciamo che tu sei la sua tesi in questo momento, no? Cioè... Come dire, sta prendendo un'altra laurea insieme a te, Albert. No, è la specializzazione. Scoprirai un giorno, dice, ecco perché mi stava vicino, perché mi servivo come veicolo pratico della sua nuova esperienza medica. Grande Vanessa. Sicuramente. Beh, questo CD racconta proprio l'importanza della solitudine. L'importanza della solitudine, sì, come piangere di una lacrima. Sì, io ho compreso che stare da soli mi ha servito per capire come stare insieme agli altri. Questo e lo racconto in questo CD, con lo stare da soli nella danza, nella forma circolare, in una cerimonia. Infatti i titoli sono quelli, Circular Song, Ceremonies, Jewel, Listen, Move, so. Angel, Solos e Dance, che è la prima. Sì. Mi piace molto perché comincia Dance with my mother, Dance with my father. Dance with my brother and singing by myself. Dance around the fire, dance inside the wall, dancing in the wind, singing by myself. Ma è bello perché Dance with my mother, io nel cuore di mia madre, Dance with my father è stata l'ultima canzone di Luther Vandross, non so che tu... Ma? Non si può non amare Luther Vandross. Sì. Io mi stavo leggendo la parte in italiano della parli come noi le lingue. No, la gente che mi ascolta Radio 24 sa perfettamente che sono quadrilingue. Io ancora, ma io anche mi ricordo ancora qualcosa di piemontese, esatto. di italiano esatto. e di grottagliese, esatto, un po' di pugliese. Ecco. C'è una cosa però è una poesia bellissima. Solos, tu stai. Ecco, guarda. Io vengo a cantare lo struggimento di un cantante. Una vita di dispiaceri pronta a bruciare il tuo cuore. Ma è bellissimo. Ma guardate, mia madre è mancata l'anno scorso, la settimana che è uscito il CD su iTunes, lo stesso giorno, il 5 giugno. E quando scrissi Dance, mia madre era ancora in vita. E quando è uscito, se n'è andata. Cioè, se n'è andata, e la prima parola di questo CD Dance with my mother. Cioè, Pazzesco, anche questa, la tua vita è piena di questi di queste cose qui. Vanessa dove l'hai incontrata? Vanessa l'ho incontrata in una mia master. Certo, Vanessa dove l'hai incontrata? Sembra che stiamo parlando di Vanessa incontrata. No, no, no. Perché non è Vanessa, virgola, dove l'hai incontrata? Molto dove, naturalmente tenevo una masterclass a Fossano, quando insegnavo a Fossano, e partì da Cecina per venire a frequentare questa masterclass di canto a Fossano, e da lì poi l'amore è stato veramente credo a prima vista, come si può dire, e quando ci siamo incontrati per un po' di tempo ci siamo detti che non poteva accadere una roba del genere. La diversità di età era tanta, e poi invece l'amore non c'è niente da fare, quando impatta non puoi neanche, cioè cerchi di tappare il buco da una parte e ti esce acqua dall'altra. Come film comici quando esce l'acqua. Io circa 22 anni e mezzo fa ho incontrato una persona e ci siamo detti: noi soltanto rapporti di lavoro, siamo sposati da 20 anni, quindi va benissimo. Questa è la bellezza dell'amore anche. Mia moglie invece mi ha detto che non gli ero simpatico, ha visto di me solo le puntate al Costanzo Show, parlavo troppo, come mi dice qualcuno anche adesso, dice: ma pure se veniva Pannella parleresti così tanto solo tu. E gli stavo antipatico, non lo facevo ridere mai con la premiata ditta, e mi dava del lei. Siamo sposati da 10 anni, vedi, abbiamo un figlio. Bellissimo. È solo così. Bellissimo. Chi si odia si compra. Sentiamo Dance un attimo, la prima di questo CD del nostro amico. Eccolo. Yeah. Dance with my mother, dance with my father, dance with my brother, sing by myself. Dance round the fire, dance inside the water, dance with the wind, sing by myself. Dance with my mother, dance with my father, dance with my brother, sing by myself. Dance with the fire, dance in the water, dance with the wind, sing by myself. Ma stai raddoppiando live? Sì, sì. Spettacolo guardarti, Albert. Sì, perché lui entra in trance agonistica anche perché, quando ascoltiamo, sì, la ricanta. Non so, a parte ricantarla sopra, va bene, ok, ma è la tua espressione che è bellissima. Cioè, ti viene un sorriso, una gioia in quello che fai, che è una cosa spettacolare. Penso che potrei passare le giornate a guardarti, ad ascoltarti. Beh, nascono così le collaborazioni. È bellissima questa cosa. Bellissima. Penso che stiamo facendo la cosa più bella che si può fare, cioè l'arte è bella, cioè mettiamola lì di aver paura di emozionarci, aver paura di innamorarci troppo, come dice Battista. Sì. Cioè questa paura continua di delle nostre emozioni, cioè questo è perché abbiamo scelto di fare arte, poi tutto sommato. Io sorrido perché? Semplicemente perché sono felice. Sì, sì, cioè, ma infatti, ma si vede, quello cioè, volevo dire. Cioè, dobbiamo sì, essere... Lo trasmetti, è fantastico. Ed essere comunicanti su questo aspetto. Cioè, sì, sì, essere maieutici. Sì, perché sennò, perché facciamo questo? Stare soli è magico. Io mi sento da sola quando sono con gente, ma quando sono fisicamente solo. Questi sono altri commenti. Abbiamo portato oggi la gente questa domenica senza calcio in una depressione. Cosa? Ah, c'è, diceva nell'interfono il mio amico Valerio che abbiamo anche l'altra. Sì, la sentiamo nell'ultimo blocco anche solo, se lo sentiamo. Me la leggi un attimo tu le parole in italiano? Ma io solo, sì, in italiano, perché poi lui la canterà in inglese, visto che abbiamo un doppiatore attore, insomma. Ecco, io vengo a cantare lo struggimento di un cantante. Una vita di dispiaceri pronta a bruciare il tuo cuore. Dono la mia anima alla musica e finalmente mi arrendo. È una chiamata, un amore e una benedizione che nulla potrà mai sostituire, la bellezza di un abbraccio solitario. Nel silenzio sento il suono più forte. La musica tutta intorno riempie la mia anima di stupore. Quando scende la notte, i fantasmi dei miei desideri portano via tutte le mie paure. Volo verso una nuova dimensione. È una chiamata, un amore e una benedizione che nulla potrà mai sostituire, la bellezza di un abbraccio solitario. Ecco, io vengo a cantare lo struggimento di un cantante, una vita di dispiaceri pronta a bruciare il tuo cuore. Dono la mia anima alla musica e finalmente mi arrendo. È una chiamata, un amore e una benedizione che nulla potrà mai sostituire, la bellezza di un abbraccio solitario. Solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, here I come to sing the heartache to sing a life of sorrow. Ready to set your heart on fire, I give my soul to music and finally surrender. It's a calling, love and blessing, no good ever replace the beauty of the loving embrace. It's a calling, love and blessing, no good ever replace the beauty of the loving embrace. Through the silence I hear the light of sound, as the music of the round fills my soul with wonder. When the night falls, the cause of my desire to call my fears to fly to a brand new dimension. It's a calling, love and blessing, no good ever replace the beauty of an all embrace. It's a calling, love and blessing, no good ever replace the beauty of an all embrace. Music, my only love and my only hope. I can't run away from music. Through the silence I hear the louder sound, there's the music all around, fills my soul with wonder. When the night falls, the gods of my desire to hold my fears to fly to a brand new dimension. It's a calling, love and blessing, no good ever replace the beauty of an all embrace. It's a calling, love and blessing, no good ever replace the beauty of an all embrace. Here I come to sing the heartache of singer, the life of sorrow. Ready to set your heart on fire, I give my soul the music and finally surrender. It's a calling. E questo è il title track che dà proprio lo spunto all'album. Solos, ma non sei più solos. E allora ce ne andiamo in pubblicità per poi affrontare l'ultimo blocco insieme, prima di dare la linea a tutti i convocati con l'amico Capuano, Pardo, eccetera eccetera. E restate con noi ancora per altri 10 minuti, ovviamente un minuto di pubblicità, 10 minuti staremo ancora insieme. Grazie, a tra poco con Voice Anatomy. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Voice Grey's Anatomy. Eccoci di ritorno, 16:47 primi e una manciata di secondi. Chiudiamo questa bella puntata. Mi è piaciuta tantissimo, ho imparato tantissimo, anche se come dice qualcuno parlo tantissimo, ma d'altronde quello è il mio core business, quello di riuscire a parlare in qualche modo stimolando anche i miei ospiti, anche se gli ospiti di oggi non hanno bisogno di alcuno stimolo, come Albert Era e al mio fianco Paolo Marchese, che finalmente è qui, per cui Papa Pig è lui, non sono io. Okay, chiariamo questa cosa una volta per non tutte. Non sono io. Il maiale sono io. Sì, esatto. Il maiale sono io, non è male. Capito? Andiamo un po' su. Senti, mi dice il mio amico Mauro Meconi che non ho mandato uno dei trailer che lui ha preparato su di te, dove doppi John Travolta, dove lui è un pazzo di moto, Mauro Meconi. Svalvolati on the road, dove tu sei un motociclista, dove John Travolta è un motociclista. È stata la prima volta. L'avrei mandato adesso senza il bisogno che il mio autore mi replicasse questa realtà. Oggi sono così, il fonico che chiede i soldi, l'autore che urla, l'altra che è preoccupata del nuovo lavoro che farà. Va bene, mancano solo tre puntate, due dopo questa, insomma, siamo alla terz'ultima. Allora ascoltiamo la voce di Paolo Marchese su John Travolta in Svalvolati on the road. Mamma mia, che caratteri, vai! Ma voi il casco non ve lo mettete? Magari non voglio metterlo il casco, magari non voglio niente fra me e l'asfalto. Magari ti fa comodo se ci sbatti la testa. Il 62% degli incidenti mortali in moto si potrebbe evitare con l'uso di un casco omologato. Ma davvero? Da che deve proteggerti quel preservativo di cuoio? Da Snoopy? Dal Barone Rosso? Dalle belle donne? Sentite, ragazzi, avete detto che ti piaceva. Non ci sono regole per questo viaggio, ve lo siete dimenticato? Certo, andiamo certo. Verso il Pacifico, senza programmi né tappe stabilite. Certo, abbiamo una settimana per riuscirci, no? Quindi dovremmo essere in Illinois per stanotte. Da quello che ho visto sulla mappa, per l'alba dovremmo aver superato St. Louis di almeno 100 miglia. Che ho detto? Ho detto che è strada libera, ok? Chissà dove saremo. Lo so io dove saremo. Dudley mi ha collegato. Guarda questa geggia. C'è un GPS nel mio telefono. Oh, guarda che roba. Veramente? Sì. Fammi vedere, guarda qui. Ma sei scemo? Perché l'hai fatto? Per il bene del viaggio. Non ti serve il GPS per scoprire l'America. Ti serve la moto e ti basta la strada, ok? Libertà. E se c'è un'emergenza, il cellulare ce lo hai. Ah no, ce l'avevi! Che? Ma sei pazzo! Perché l'hai fatto? C'era la mia vita lì dentro! Oh, che effetto fa, Woody? È figo! Wow! It's my prerogative! Niente cellulari! Bene, leggevo tanti messaggi. Abbiamo sentito anche Svalvolati on the road con John Travolta. La canzoncina l'avrei. Devo dire che stavi benissimo fra Flavio Bucci e Claudio Sorrentino. Per cui abbiamo avuto anche qui Flavio Bucci, che è stato bravissimo a doppiare Grease, la febbre sabato sera. Okay. E come Enrico Maria Salerno era su Clint Eastwood, sulla trilogia del dollaro, insomma. Cioè, meno male uno non si aspetta che cioè, tu non vai al cinema, so che sei fermato a Ben-Hur, lo capisco bene. Spero che Vanessa. Aspetta, Ben-Hur invece è uscito l'altro, sì, però. Sì, ma quello è brutto quello che c'è adesso, non si può guardare. La corsa dei big è finta. No, vi prego. Vox Anatomy, Pino, grazie come sempre per il cerchio. Non andiamo in America, anche se meravigliosi. Hai dimenticato il nostro giro tondo, non quello politico, ovviamente, che è stare uniti e passare il calore delle mani, del canto, del corpo in unicità indicibile. Indicibile, sì, dice Maria Laura. Sì, grazie davvero. Sì, non voglio dimenticare, volevo far vedere soltanto che era uno che conosceva anche oltre i confini di Monteverde Vecchio a Roma, soltanto per autoproclamarmi un uomo interessante. Ma non mi fermo lì, sono poi il Bignami della mia vita. Senti, caro Albertera, adesso tu tornerai in quel ritiro meraviglioso nel cuore della Toscana. Sì, che ritorna. Succederà? Che beh, succederà? A parte succederà, il tuo insegnamento in giro. Organizzo un camp di canto circolare a Belluno alla fine di luglio, dove ci saranno 4 giorni di attività di body percussion. Quante persone possono? 70, siamo già quasi a 70. Certo. Sono vabbè, due vengo, blocchi da 35, 35 persone che canteranno per 4 giorni e porteremo l'insieme, lo stare insieme. È come un po' wow praticamente, altra festa dei nativi. Più o meno dove sarà ci sta quello per 3 giorni. Beh, c'è body percussion, c'è circle singing, c'è direzione corale, c'è ritmo vocale, c'è... Vengono già dei semiprofessionisti o professionisti avviati, anche dilettanti. Anche sono dilettanti. Tutti insieme? Sì, perché il modo di fare il circle singing non c'è livello, ci sono tanti aspetti del canto che comunque permettono di ritrovare un po' quello che è lo stare insieme. Esatto, che noi ci dimentichiamo. Esuli dal canto stesso. Perché la tecnica è interessante, però usarla all'interno dello stare insieme è ancora secondo me, un mezzo nasceranno ulteriore. Dei figli, nasceranno dei figli quei ulteriore. Giorni, lo sai? Cioè. Secondo me sì. Secondo me sì. Basta che non si poi, scoppiano delle coppie, attenzione, per nascere un amore forte. Ci sarebbe poi da citare il convegno internazionale della voce artistica, dove dove io spero di esserci proprio, io vorrei tanto che tu ci fossi. Io ci sarò. Quando è con siamo, l'amico Franco Fossi? Siamo alla fine di ottobre, dal 27 al 30 ottobre. Ecco, okay. Io spero che ci sia un lunedì in mezzo, perché io sono in scena. No, c'è un giovedì, venerdì, sabato e domenica. Vabbè, speriamo che sia un po' una pomeridiana di giovedì. Sì, c'è mattina e pomeriggio. Ah, ok. Se, no, okay, se, la se mattina... ti va, il tuo intervento sarebbe appena dopo pranzo. Ah, perfetto. E beh, è che a Torino però dov'è? No, a Ravenna. A Ravenna, più vicino, insomma. Sì. Roma-Ravenna, sennò. Beh, no, sì, Roma-Ravenna c'è. Ma che vuoi? C'è un attimo, c'è ore. Il treno Roma-Ravenna, non è vero. Sì, sì, sì. No, se la mattina, ok. La mattina è importante che la sera sono in scena. Io poi faccio queste follie. Beh, allora parlerò. Con Franco. Ma Franco sì, ci ho parlato anch'io, sì. E sì, gli ho promesso in qualche modo, mezzo e mezzo, perché all'inizio ero un po' arrabbiato. Ma guarda, No, lo adoro Franco e Diego, per me sono le due persone inamovibili di questa trasmissione. Beh, anche se penso... con Franco ci ho avuto meno a che fare. Beh, io penso, Franco mi ha dato una grande mano. No, Franco è veramente bravo. Le sue telecamere qua dentro hanno girato abbastanza dentro la mia gola. Sì, per capire pure te come stai combinando. Quindi tanti esperimenti che abbiamo fatto insieme, lui è stato la persona che mi ha compreso. Inside Albert Era, sì, uscirà un documentario con te interno proprio. E poi voglio annunciare l'uscita del prossimo CD, si chiama The Sound Teller. Ma io e Paolo non possiamo fare nessuna voce, veramente. Secondo me sì. Magari fare una specie di racconto vostro con la vostra voce. È quello che posso fare. Mandaci e fare la colonna sonora. Esatto. Magari. Mandaci il testo e noi lo facciamo. Tanto la voce nostra più o meno si sposa. Sarebbe interessante. Io vi ringrazio. E noi diciamo poi quanto è buona la fattura. Fatturate. Assolutamente. Abbiamo 30 secondi per salutare, caro Albert, grazie della tua generosità, della tua curiosità, della tua passione che hai trasmesso attraverso questi microfoni. Grazie, te lo diciamo tutti e due insieme, vero Paolo? Assolutamente oggi siamo stati, sì. Io e lui siamo una cosa sola bellissimo, oggi. Bellissimo, siamo bellissimo. Due, un corpo e un'anima. Grazie di cuore a Radio 24 e grazie di cuore a Pino per avermi dato questa opportunità. Grazie Albert, grazie Paolo Marchese. A presto. Prego, nel nuovo disco di Albert Era con Pino Insegno e Paolo Marchese. Yeah! A domenica prossima, signori! Yeah!